Iceberg News. Parole, suoni, immagini. Carissimi amici di Iceberg News, un caloroso Alegher da Paolo Travagnini e Marino Midena. Ed ecco Iceberg versione radiofonica, il format di informazione culturale, musica e spettacolo che vi accompagna ormai da 3 anni in video, approda ai microfoni della radio. E non poteva essere altrimenti, perché un programma attento a certi valori e di qualità ha la sua giusta ubicazione in una radio di valori e di qualità, è chiaro. Sì, Iceberg vuole parlare di cultura, arte, teatro, cinema, musica, spettacolo in genere, ma quello sotto il pelo dell'acqua, quello cioè di cui non si parla, emergenti, indipendenti. Diamo voce a chi non ha voce. Eh sì, rompiamo il ghiaccio proprio. Quindi ogni settimana ci potete sentire su questa radio. Se volete contattare la redazione potete scriverci a info@icebergnews.net. Certo, ma potete anche telefonarci oppure smsarci, come si suol dire, al 339 39 90 836. Perciò ogni puntata sarà ricca di ospiti, musica e soprattutto di opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. Sì, tu hai detto giustamente che noi avremo degli ospiti in studio e infatti oggi parleremo di improvvisazione teatrale con Antonio Mariani della compagnia Estempore. Ciao a tutti gli ascoltatori. Antonio, grazie di essere venuto innanzitutto. Ci vuoi raccontare che cos'è l'improvvisazione teatrale? Insomma, per farmi la domanda più facile mi fai la più difficile. Sono circa 15 anni che mi occupo di improvvisazione teatrale e purtroppo ancora non ho una risposta sintetica. Perché? Perché l'improvvisazione teatrale è un prodotto multiforme, proteiforme direi, che ti cambia sotto mano mentre lo usi. Comunque potremmo dire, per sbrigarcela, che è andare in scena senza testo. Ecco, andare in scena senza testo è, nel caso della nostra compagnia teatrale Extempore, anche senza canovaccio, perché noi non usiamo il canovaccio. Ma questa risposta diciamo che è un po' riduttiva. Secondo me è una risposta un po' più approfondita. Comporta il fatto che l'improvvisazione teatrale va considerata come una profondissima esperienza anche di formazione umana. Ecco, sostanzialmente è una sfida contro il vuoto. Ecco, ma soprattutto direi più precisamente contro la paura del vuoto. La paura del vuoto è una delle paure più ancestrali dell'essere umano, quindi affrontarla e possibilmente superarla dà una realizzazione interna veramente molto molto interessante, anche a livello umano oltre che artistico. Una delle prime cose che si imparano, di cui si fa esperienza, è proprio il fatto che il vuoto non esiste. Come diciamo noi, il vuoto lo facciamo noi. Soprattutto la sensazione di vuoto è una sensazione psicologica, direi, creata da noi stessi. In realtà siamo circondati da un pieno di cose, la stessa aria nella quale ci muoviamo è qualcosa di pieno, l'apparenza di vuoto appunto è solo un'apparenza, no? E lo stesso a livello psicologico, siamo pieni di storie che siamo quasi fatti di storie, direi, che basta allungare una mano per prenderle, per narrarle, diciamo. Poi l'improvvisazione cos'è? È gioco, soprattutto è gioco, va alla radice del gioco, e questo si può capire, no? E quindi alla radice del teatro, perché il teatro, la stessa parola recitare in moltissime lingue, è sinonimo di gioco, in inglese to play, jouer in francese. È ricerca che diventa spettacolo. Immaginate, le prove di uno spettacolo a volte sono molto più interessanti della realizzazione finale. Mettere in scena e donare al pubblico quel momento irripetibile. Benissimo, dei momenti irripetibili che ti preghiamo di raccontarci tra qualche minuto. Esatto, infatti è molto interessante quello che ci dicevi, ma lo riprendiamo tra un po', perché è giunto il momento di ascoltare qualcosa con una voce un po' particolare, ma lo commentiamo tra un po'. Ma che giornata dubbia quella mia, su questo trono finto caso mai, un viaggio dentro me, nel mio DNA rispetto io i casi tuoi, e giorni cercando di te, la gente poi chissà se pensa a me, il solito caffè m'ha offerto a chi, se gli occhi miei aspettano il tuo sì, binari nuovi. Ciao, un saluto a tutti gli amici della radio, ovviamente dal vostro amico del cuore, Daniele Sinasce. Unirsi se poi il sogno mio stessa scuola, stessa solitudine. E la stranezza fatta ormai bandiera, diversità, inquietudine, a cena dalla vita abbiamo fatto, ai mezzi già. La meta mia è l'altra mia meta, ma che gran peso il mio sapere che quell'altra mia meta ha vinto già. Il sogno mio comincia là, binari noi in cerca di noi, unirsi mai, unirsi se puoi, ma uomo io e uomo tu, a volte sai non mi si vede più. Cerco la mia metà, quando voi di dentro piangete, ecco la mia metà, quando rido piango e voi ci siete. La faccia mia metà non sarà, il nome mio furore farà, libero adesso i passi miei, eccomi, io sono qui. Vivere a metà, sembrando chi non sei. Vivere a metà, ma sapendo che anche tu ci sei. Vivere a metà, come binari noi, perché senza di me, neanche di te. Saprei. Non c'è che dire, la voce è quella proprio sua, e se lo vedeste anche l'aspetto è il suo, ma non è lui. Si tratta, è uno di quei casi strani della natura di grande somiglianza estetico-canora. Lui è Daniele Quartapelle, in arte Daniele si nasce, con Vivere a metà, da lui scritto e musicato da Paolo e Andrea Amati degli Upbeat Studios. Sì, ho trovato il testo molto interessante, molto personale, ci fa riflettere sull'identità delle persone, che a volte può essere causa di dubbi, scherzi del destino. Insomma, ti fa interrogare. Abbiamo sentito le parole di Daniele Quartapelle, ma ad Iceberg cerchiamo sempre di dare visibilità a tutti gli artisti, e vorrei ricordare anche che abbiamo sentito il pianoforte di Federico Di Curzio, alle chitarre e al basso Andrea Amati e alla batteria Ezio Zaccagnini. Allora, eccoci di nuovo con Antonio Mariani della compagnia Extempore Improvvisazione Teatrale. Prima ci dicevi che l'improvvisazione supera in qualche modo il testo e quindi il teatro di testo, ma è proprio tutto a ruota libera, non ci sono regole per l'improvvisazione teatrale? Allora, regola è una parola che all'improvvisazione, improvvisatore teatrale non piace, e poi capire anche perché. Più che regole, mi piacerebbe parlare di disciplina. Ecco, l'improvvisatore teatrale, credo l'improvvisatore in generale, è una persona estremamente disciplinata, che fa dell'ordine e della conseguenzialità la sua regola principale. Nell'improvvisazione teatrale poi ci sono delle regole specifiche. Dunque, stare nel qui e ora. Questa è la prima che mi viene in mente, stare nel qui e ora, cioè è un'esperienza piuttosto rara, cioè per moltissima parte del nostro tempo noi siamo abituati a stare o nel passato o nel futuro. E intanto nel presente scorre la realtà, un enorme e ricchissimo fiume di cose che bisogna soltanto allungare la mano per prenderle. Ecco, il senso si trova nel presente, questa è la profonda convinzione dell'improvvisatore teatrale. Poi, altra disciplina importantissima è quella dell'ascolto. Ecco, l'ascolto è una parola molto vaga che per noi significa principalmente tre cose: ascolto della scena, ascolto dell'altro, del proprio compagno, e ascolto di se stesso. L'ascolto della scena è l'ascolto di fotografico di quello che sta avvenendo durante l'improvvisazione, che siccome non è scritto va ricordato il più precisamente possibile. L'ascolto dell'altro è l'ascolto della sensibilità del proprio compagno. Bisogna arrivare tra improvvisatori a un rapporto quasi telepatico che consenta di fare cose che sembrano incredibili, sembra che siano state comunicate, mentre invece derivano proprio dal fatto che ci si inizia ad ascoltare. L'ascolto più difficile è però sicuramente l'ascolto di se stessi. Ascoltare se stessi vuol dire mettersi da parte nei confronti di se stessi, per l'appunto, diventare spettatori di ciò che ci sta succedendo, perché l'improvvisazione è un evento. Quindi in uno spettacolo di improvvisazione teatrale paradossalmente potremmo dire che sono tutti spettatori, compresi gli attori, che stanno godendosi lo spettacolo di ciò che loro stessi stanno facendo, a volte con maggior meraviglia di quanto facciano gli spettatori stessi. Ti ringrazio Antonio, stavi finendo? Beh, volevo dire l'ultima regola è quella della reattività, è inutile dirlo, occorre essere reattivi nell'improvvisazione teatrale, reagire a qualunque cosa. Perfetto, ti ringrazio, un argomento molto molto interessante, ma ci ritorniamo tra breve, perché siamo giunti alla seconda proposta discografica, molto particolare, che ci è piaciuta molto. È un microcosmo fatto di avanguardie elettroniche, di atmosfere rarefatte che ci ricordano in un certo senso la grande Björk. Lei è Chiara Stella e il brano è Microcosmo. Una piccola stanza microcosmo, una donna microcosmo scrive. delle opportunità di lavoro. La news che adesso vi raccontiamo è dedicata al mondo del teatro. Riccione, un premio al teatro. Quindi è uscito il bando per il più autorevole riconoscimento che viene assegnato ai testi per il teatro, il premio Riccione 2007, che è giunto alla 49esima edizione. Viene attribuito ogni 2 anni a un'opera in lingua italiana mai rappresentata. La manifestazione è aperta a tutte le forme di drammaturgia teatrale. Per ogni lavoro, il numero dei personaggi e la durata dei testi è libera. Una giuria composta dai massimi esperti del settore, come Luca Ronconi e Ottavia Piccolo, assegnerà al miglior testo un premio di 7.500 euro. C'è anche un premio di 30.000 euro, quindi ascoltate bene, 30.000 euro per l'allestimento di un vero e proprio progetto. I copioni devono pervenire entro il 5 febbraio 2007 alla segreteria del premio Riccione. Se volete potete scrivere direttamente a Viale Vittorio Emanuele II, numero 2, 47838 a Riccione, in provincia Riccione RN. E vai Marino, ti ringrazio di queste belle opportunità che offri sempre ai nostri ascoltatori di Iceberg News. Siamo sempre in compagnia di Antonio Mariani dell'associazione Ex Tempore e stiamo parlando di improvvisazione teatrale. Antonio, ci vuoi spiegare a che cosa serve l'improvvisazione teatrale e per chi fosse interessato dove la possiamo imparare? Ma le applicazioni dell'improvvisazione teatrale sono veramente tante. A parte quella teatrale, proprio per gli attori, anche per gli attori di testo, per mantenere quella freschezza indispensabile all'attore di testo, l'improvvisazione teatrale è ottima, ma c'è applicazioni persino nelle aziende, cioè persino nella formazione aziendale, nonché anche in campo terapeutico. So che alcuni usano l'improvvisazione teatrale, io direttamente non conosco bene, però so che viene usata addirittura in campo terapeutico, nell'arte terapia, con i bambini è assolutamente adattissima l'improvvisazione teatrale. Per chi vuole improvvisare viene da noi. Ti ringrazio. Dove? Viene da noi in Via dei Latini 28. Abbiamo corsi per principianti, per avanzati, chiunque può entrare nelle prove della compagnia teatrale, perché le nostre prove sono sempre aperte. A Roma naturalmente. A Roma. E però so che starebbe per partire con dei corsi anche fuori Roma. Sì, attualmente a Genova, sta partendo un corso a Genova, un corso di improvvisazione teatrale. E niente, che altro dire, venite, c'è un'improvvisazione per tutti. E vai. Grazie. E siamo giunti ai saluti, carissimi. Intanto ringraziamo subito chi al di là di questo vetro ci dirige. Un grazie veramente a Donatella Geretto. Vai Marino. Grazie anche ad Antonio Mariani che ci ha fatto compagnia in questa grande puntata in cui abbiamo parlato di improvvisazione teatrale. Ci hai aperto un nuovo mondo molto interessante, veramente grazie ancora. Grazie a voi, ciao. E visto che siamo in tema di ringraziamenti, allora ringraziamo anche Lavorare, il nostro settimanale da cui noi traiamo le informazioni relative alle opportunità del mondo di lavoro. www.lavorare.net, se volete consultarlo, un sito ricchissimo dove troverete le notizie che noi abbiamo dato, ma molto altro. E visto che Iceberg News nasce come programma televisivo, ricordiamo dove potete vederci. Potete vederci sul satellite, su SAT8, una stazione satellitare della piattaforma Sky, in posizione 859, il martedì, e il venerdì su SAT9, sempre piattaforma Sky, in posizione 902. Se siete laziali e siete amanti del terrestre, allora ci potete vedere anche su Televita ogni sabato alle 19.35. Se avete problemi di orario e non vi è andato bene nessuna delle proposte che abbiamo fatto, allora vi invitiamo ad andare su internet a visitare i siti www.universotv.it oppure www.arcoiris.tv, dove potete scaricare la trasmissione per intero e vederci quando volete. Esatto, anche quelle vecchie, quelle passate. E vai. Naturalmente sul sito www.icebergnews.net potete avere l'email info@icebergnews.net per mandarci i vostri commenti e per mandarci il vostro materiale. Potete trovare l'indirizzo sempre sul sito nostro. Aspettiamo il vostro materiale perché per noi è veramente fondamentale, importante. Se volete essere presenti anche proprio qui con noi, ospiti, ricordatevi di mandarci proprio le vostre proposte. Iceberg News vi dà appuntamento alla prossima settimana e un caloroso Allegher da Paolo Travagnin, Marino Midena e Antonio Mariani. Iceberg News. Parole, suoni, immagini.